con Andrea Paolo Massara, direttore artistico della quarta edizione di Avvistamenti Teatrali a Parco Torre Marrana di Ricadi dal 9 al 30 agosto 2019. Ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Raccontiamo dall'inizio cos'è Avvistamenti Teatrali. È una festa del teatro in un luogo in cui il teatro non c'è. Operiamo in una provincia, Vibo Valentia, in cui non c'è un teatro attivo, il più vicino dista 100 chilometri, e ad agosto portiamo spettacoli, quindi mai visti, per un mese, in un luogo suggestivo, perché è un parco naturale con un teatro all'aperto, contemporaneo ma fatto in pietra con la sua bellezza e una torre antica di avvistamento sullo sfondo. E com'era nato tutto? Circa 5 anni fa questo teatro versava in stato di abbandono, il comune era commissariato anche, e un gruppo di ragazzi, ventenni, giovanissimi, hanno deciso di darsi da fare proprio con le zappe, pulendo il teatro, e hanno messo su una prima stagione teatrale totalmente autogestita, e da lì in poi è nato un percorso che è cresciuto, in cui queste persone si prendevano cura del teatro ed è nata un'associazione. Piano piano abbiamo coinvolto anche il comune, che adesso non è più commissariato, da anni eletto democraticamente, uno sponsor. È diventata una vera stagione di teatro, poco a poco. Quanti saranno gli spettacoli e gli eventi? Sono 5 spettacoli e 3 eventi extra, quindi 5 storie di nuova drammaturgia, con storie che cerchiamo tra le proposte in tutta Italia, tra quelle più coinvolgenti, capaci di parlare a un pubblico ampio, quindi non solo agli addetti ai lavori. A volte la nuova drammaturgia succede che è un po' criptica, è rivolta a specialisti quasi. Invece queste sono storie coinvolgenti che parlano delle nostre vite, e quest'anno il tema è proprio la vita, proprio il venire al mondo, la nascita, una riflessione sull'esistenza, e persino c'è uno spettacolo che racconta il momento in cui un bambino e un nonno si saluteranno per l'ultima volta, quindi il ciclo della vita. Si svolgono questi spettacoli in giorni fissi settimanali? Ci sono dei giorni stabiliti? Sono quasi tutti di venerdì, sono il 9, il 16 e il 23. C'è un extra domenicale, spettacolo per tutta la famiglia, anche adatto ai bambini, il 25 domenica, e poi l'ultimo è di nuovo di venerdì, il 30 agosto, e chiudiamo con uno spettacolo sull'aldilà. E c'è solo lo spettacolo o sono previsti anche altri momenti? Quest'anno la novità è che cerchiamo di proporre a Torre Marrana degli eventi extra che promuovino un'idea del teatro come spazio polifunzionale, dove poter fare cose diverse anche durante momenti diversi della giornata. Infatti il 18 agosto, domenica, ad esempio, ci sarà lo yoga al tramonto, ad ingresso libero su prenotazione. E poi, invece, questa domenica 11 c'è un evento di osservazione delle stelle in collaborazione con il planetario di Reggio Calabria. Ci dai dei riferimenti web per sapere tutta la programmazione? Essere aggiornati su tutti c'è un solo modo, semplicissimo, anche bello, basta seguire la pagina Facebook ufficiale che è Avvistamenti Teatrali, e potrete scoprire anche attraverso le foto che cosa vi perdete se non venite. Oh, e questa rassegna ha anche altri momenti durante l'anno o vi concentrate nel mese di agosto? Succedono anche altre cose nel corso della stagione? Dipende dagli anni, dipende dalle energie, perché siamo persone che lavorano anche ognuno nei suoi ambiti, e in certi casi siamo riusciti anche a fare degli appuntamenti nel periodo di dicembre, di Natale. L'idea nel tempo è di riuscire a estendere la stagione e diventare un teatro tutto l'anno, ed è questo progetto a cui tendiamo, che noi chiamiamo progetto 365, cioè tutto l'anno teatro in un luogo in cui il teatro purtroppo non c'è. Ci speriamo, è un percorso che stiamo portando avanti. In questo senso avete uno spazio di riferimento? Noi abbiamo infatti un problema al momento, perché questo problema del teatro significa amici anche che si attenui agli spazi. Per l'estate infatti siamo ben forniti, perché questo anfiteatro in pietra molto bello diciamo ci accoglie con la bellezza proprio. Invece d'inverno purtroppo non esiste uno spazio altrettanto grande per accogliere degli spettacoli, quindi stiamo cercando, speriamo anche in futuro in questo teatro che stanno finendo di costruire nel capoluogo di provincia, Vibo Valentia. Insomma, qualcosa si muove e noi stiamo osservando per riuscire ad acchiappare, diciamo, questi spazi per offrire degli spettacoli, perché non rimangano degli spazi vuoti, ecco. E allora ricordiamo la quarta edizione della rassegna Avvistamenti Teatrali dal 9 al 30 agosto 2019 a Parco Torre Marrana di Ricadi. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Paolo Massara. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, buona serata.